Radio Città Fujiko e l'Università Primo Levi presentano Guida all'ascolto della musica classica, 3 secoli di creatività musicale. A cura del professor Stefano Malferrari. Quello che vi farò sentire ora è il valzer opera 69 numero 1. La produzione di Chopin arriva con Chopin in vita fino all'opera 68. È la mazurka opera 68 numero 4 fondamentalmente scritta nelle ultime settimane di vita. Ma da quel momento comincia tutta una serie di opere pubblicate 69, 70, 71, notturno per 72, in realtà scritti prima, non dati alle stampe e che editori interessati, amici in qualche modo orfani della creatività di Chopin decidono di far pubblicare. Però fino all'opera 68 c'è ancora l'approvazione di Chopin. Ecco, questo qua è un valzer pubblicato subito dopo la morte, scritto qualche anno prima. Un editore lo pubblicò con il titolo L'addio, davano nomi ai brani per renderli più facilmente memorizzabili. Nulla di questo è perlomeno nelle intenzioni di Chopin. È un valzer scritto in 3 parti, parte A, B, C e la ripresa della parte A. Ha una linea melodica che non è più così brillante come ci potremmo aspettare, ma anzi estremamente malinconica. Forse da lì l'idea dell'addio che suggerisce l'editore. Parte B, molto più semplice dal punto di vista della costruzione. Così semplice nella sua linea melodica, sa più di danza da cortile, più che da salone nobile della Parigi dell'Ottocento. Sembra quasi una memoria della mazurka che arrivava dalla Polonia, o comunque un valzer più immediato, appunto da cortile. E poi c'è una parte C, che invece è veramente un omaggio al valzer della Vienna dei primi decenni dell'Ottocento. Queste 3 parti, parte A, parte B e parte C, creano questo valzer che è uno dei tanti valzer che Chopin ha scritto. 15 pubblicati, 15 fanno parte di un'unica idea, ma altri poi ce ne sono postumi, scritti in gioventù. Diviso in 3 parti, parte A, parte B e parte C. Ogni parte è estremamente diversa, l'una dall'altra. E come abbiamo visto per Schubert, con l'improvviso che racchiude 2 piccoli valzer di carattere differente, ecco, con Chopin abbiamo questi piccoli brani da salotto che all'interno propongono un patrimonio estremamente variegato. Un valzer molto più ricco dal punto di vista espressivo, parte A. Un valzer quasi da cortile, la parte B. E un valzer memoria di un valzer viennese, la parte C. Tra l'altro, il percorso armonico della parte A è una linea melodica quasi sotterranea. quello della linea melodica principale. Quindi, ascoltando questo valzer, la prima cosa che colpisce è questa. Questa linea melodica questa volta sì cantabile da una voce, ma sotto c'è questa ricchezza. Non c'è alcuna pretesa di chiusura in modo ridondante, quasi come se ogni brano fosse un'entrata, una proposta, un'idea, e poi così, con la stessa delicatezza con la quale è entrato, se ne va. Non c'è l'idea della chiusura come in una forma sonata, dove comunque l'ultimo movimento chiude in modo solenne, in modo che tutti si accorgano di questo arrivo alla chiusura di tutto un percorso. Ecco, tra l'altro, Chopin, in quei pochi anni parigini, meno di 20 anni, diventò talmente celebre, talmente ricercato anche dal punto di vista commerciale, che aveva 3 editori, uno in Germania, uno in Inghilterra e uno in Francia, a Parigi. Era estremamente caotico, scriveva velocemente, mandava ai vari copisti dei vari paesi il brano da pubblicare e i copisti impazzivano per riconoscere la grafia di Chopin, e ci si ritrova con alcuni brani che in Inghilterra hanno un certo tipo di struttura o di fraseggio diverso da quello che lo stesso brano pubblicato in Germania presentava. Nel caso di questo valzer, che se eseguito nella versione pubblicata a Oxford ha una parte in più rispetto a questa, e mi pare sia Michelangeli abbia registrato nella versione inglese, e non è raro che appunto in Chopin ci siano questi equivoci, queste differenze a seconda dell'edizione pubblicata. Era veramente celeberrimo. Tra l'altro Chopin scrive alla sorella rimasta in Polonia: guadagno tantissimo, ma spendo quasi più di quello che guadagno per poter mantenere un tenore di vita che sia coerente con le aspettative che il pubblico ha da me. Quindi la carrozza più elegante, trainata da quanti più cavalli possibile, l'abito assolutamente elegante come avevano i nobili che andavano dai sarti più prestigiosi. Era una vita davvero e propria star dell'ambiente culturale nobile della Parigi di quegli anni. Per fortuna una star non frivola. Vi faccio sentire un valzer ora, scritto precedentemente a un numero d'opera più basso rispetto all'opera 69, l'opera 34, scritto quindi nel pieno dell'attività dello Chopin ancora in una salute accettabile, non così drammaticamente esile come poteva essere negli ultimi anni di vita. È il valzer opera 34 numero 2. È un valzer diviso in molte più parti: una parte A, una parte B, parte C, parte D, la ripresa della parte B, della parte C, della parte A, una parte nuova e una parte A per concludere di nuovo. Il tutto in 4 minuti. Prima di tutto, il tema non è più alla linea acuta, ma è nella parte bassa. Immaginiamo la stessa melodia al violino. Sì, cantabile, malinconica, ma basta spostarla a un registro più grave e non è più soltanto un po' malinconica. Diventa quasi pesante, quasi un lamento. E se fosse al violino? E in Chopin? Passare da un registro più brillante, anche se languido in questo caso, come quello del violino, e metterlo a una voce più grave, quella del violoncello, e la stessa frase, le stesse note, assumono un carattere molto più intenso, molto più drammatico, molto più pesante. Poi c'è una parte B, che è il vero e proprio valzer. Caso che nella melodia ci sono delle pause. Le ho esagerate, chiaramente, le ho fatte sentire un po' di più di quello che sarebbe giusto, ma è sufficiente un silenzio in una linea melodica e questo silenzio dà un'idea di angoscia, quasi il singhiozzo di un pianto. È sufficiente una pausa in una linea melodica è sufficiente che sia per dare un'idea di interruzione quasi da singhiozzo. E questa era la parte B. Poi c'è una parte C che è forse più una mazurka che un valzer, c'è un carattere molto energico, molto brillante. E si arriva alla parte D, questa. C'è questa parte. È la stessa linea melodica che abbiamo qua. C'è una nota nella scala, la terza nota, il terzo grado, che è definito la modale, cioè quella che determina il modo maggiore o minore di una tonalità. Basta spostare una nota, questa, e andare in questa, e abbiamo la stessa tonalità nel modo minore. Ecco, Chopin scrive la melodia della quarta parte, la scrive prima nel modo maggiore e poi suona le stesse note, ma nel modo minore. E sembra un'altra cosa. Del resto, se noi proviamo a immaginare basta solo cambiare una nota. In realtà non l'ho inventata questa melodia, l'ha usata Gustav Mahler nella prima sinfonia, nel primo movimento, usa Frère Jacques in tonalità minore e diventa un inizio estremamente drammatico. è sufficiente cambiare una nota dell'armonia, passare dalla tonalità maggiore alla tonalità minore e cambia completamente l'aspetto musicale di quella melodia. Questa è quella che Chopin propone in tonalità maggiore. E questa subito dopo in tonalità minore. Cambia completamente l'aspetto. Ecco, questa parte D fa seguito una ripresa della parte B, una ripresa della parte C, poi si ritorna alla parte A e poi una nuova parte, chiamiamola E, che è un grande assolo di violoncello, quasi un omaggio a Franchomme e al suo violoncello. Suona usando tutta la tastiera e poi si riprende con la parte A che va a chiudere. Tutto questo nello spazio di poco più di 5 minuti, in un brano che era il brano festoso per eccellenza, il valzer. Ecco, Schumann scrive che con Chopin il valzer assume un carattere epico, può essere soggettiva come definizione, però è vero che con Chopin il valzer perde completamente quella caratteristica da festa brillante e diventa quasi un racconto. Chopin non ha mai cercato di esprimere in musica una narrazione. Forse in una delle ballate è solo scritto in poche righe a un allieva. In realtà tutti i brani sono brani di cosiddetta musica pura, però all'interno c'è una quantità di materiale, di varietà emotiva, di varietà armonica, che sembra veramente un grande, piccolissimo racconto. In pochi minuti, un piccolo mosaico di tante idee musicali concentrate in tante piccole caselle. Quando ero studente e affrontavo i primi lavori di Chopin, anche le prime piccole composizioni, per poi andare a quelle più grandi, la cosa che mi sorprendeva era perché una melodia così bella non veniva riprodotta più spesso, non veniva portata avanti. Nella terza ballata, per esempio, c'è una melodia splendida, bellissima. Probabilmente certi compositori avrebbero fatto almeno alcune pagine di sviluppo di quella melodia. In Chopin dura poche battute, dura meno di una decina di secondi e non si ripresenta più. In Chopin è proprio questo il valore, che una linea melodica viene esposta e poi rimane la memoria di questa suggestione, di questo canto. E in questo caso sì, c'è una ripetitività, ma di piccole cellule. Non vengono sviluppate, poi rielaborate, poi riprese, ma vengono messe lì. Poi c'è una parte diversa, una parte B, poi una parte C, poi viene ripresa la parte A, che era così bella, viene ripresa ma per pochi secondi. È veramente una parsimonia di una creatività musicale che in realtà è assolutamente travolgente. E soprattutto dobbiamo sempre immaginare quello che era l'impressione dei contemporanei, del compositore stesso, l'impressione che potevano avere fatto le ultime sonate di Beethoven agli appassionati di musica dell'epoca, del 1818, 20, 22. Lo stesso editore che ricevette l'opera 59 di Beethoven si rifiutò di pubblicarla perché non sarebbe stata gradita al pubblico. Composizioni che noi viviamo in modo ormai consueto, ma che per l'epoca avevano assolutamente qualcosa di sconvolgente. Ecco, immaginate un pubblico, tra l'altro un pubblico tutto sommato, forse oggi ce lo dovremmo immaginare un po' frivolo, quello dei salotti pestaglioli, ma che riceve come proposta musicale un valzer con questa intensità di espressione musicale, anche di profondità di pensiero, in un momento che deve essere una festa musicale. Ecco, in quel salotto Chopin crea quello che è il genere in qualche modo emblematico per Chopin, il notturno. Quei notturni che poi diventeranno repertorio anche dei compositori francesi successivi a Chopin, Fauré, Debussy. Ora vi faccio sentire un notturno che è quello che per certi versi è diventato più celebre, l'opera 9 numero 2, un notturno scritto quando Chopin era da poco a Parigi, nei primi anni 30. La melodia è questa, quella in mi bemolle. Thank you. questo casualmente sia diventato un notturno celeberrimo. Probabilmente un po' influì un pianista come Arthur Rubinstein, che lo fece diventare il proprio bis in qualche modo più rappresentativo, ma forse le pubblicità che hanno attinto da questo brano, mettendolo magari come jingle per un aperitivo. Ma Chopin scrive a Jane Stirling, una sua allieva: quando esegui i miei notturni pensa al bel canto italiano. E in questo brano dei primi anni 30 c'è, è presente la vocalità che arrivava da un Bellini, che a Parigi in quegli anni faceva un enorme successo. È quasi come se un polacco trapiantato a Parigi prendesse un'idea di linea melodica di un siciliano che in quel momento faceva successo a Parigi, rappresentante del canto italiano, e attraverso un brano come il Notturno, rappresentativo della Parigi dei primi decenni dell'Ottocento, ne creasse un gioiellino musicale. Beh, vuol dire, l'arte a volte riesce a creare delle macedonie di influssi e di generi che è impressionante. C'è da dire che Chopin, come Remida, tutto quello che toccava diventava oro. Ecco, con Chopin tutto diventava oggetto d'arte. Ecco, con Chopin lo studio diventa una piccola opera d'arte. Ne scrive 24, 12 dell'opera 10, 12 dell'opera 25, e ogni studio è una messa in opera di una difficoltà manuale del patrimonio tecnico del pianista virtuoso, che sia il passaggio di ottave, che sia gli arpeggi, che sia il passaggio delle cosiddette doppie note. Ecco, scrive 24 studi dove ogni studio propone un elemento del meccanismo pianistico, ma a differenza di quello che succede in Cerni, in Moscheles, in Clementi, Muzio Clementi, che scriverà il Gradus ad Parnassum, un'opera monumentale, sono 100 studi che dovrebbero elevare lo studente ai massimi livelli del virtuosismo, e in alcuni brani si tratta anche di studi pregevoli, però sempre legati all'idea del meccanismo e quasi indeboliti musicalmente dalla necessità di mettere in atto un lavoro meccanico fruttifero. Ecco, con Chopin lo studio, per quanto utile, utilissimo dal punto di vista meccanico al giovane pianista, diventa un oggetto d'arte. Ora vi faccio sentire l'ultimo dell'opera 10, che viene comunemente conosciuto come Caduta di Varsavia. Al di là di questo, Chopin scrive un brano che, tra virgolette, dovrebbe avere una valenza didattica. È un brano per la mano sinistra, per la agilità della mano sinistra, ma lo scrive sotto l'emozione avuta dalla notizia dell'occupazione della Polonia, che lui non vede da tanti anni, e sotto questa emozione scrive questo brano. Non scrive una polacca, non scrive una mazurka o una sonata, volendo manifestare la propria emozione con qualcosa di grande, ma scrive un piccolo brano di pochi minuti, uno studio, un brano tecnico, prendendo come tema, non dichiaratamente ma in qualche modo non cela questa possibile provenienza, il tema della patetica. Questo tema drammatico con Chopin diventa credo che più ancora dei notturni, delle mazurche, delle polacche, ce ne sono di famosissime, la polacca eroica, l'opera 53, credo che ancora più di quelle opere, il brano più rappresentativo, il genere più rappresentativo della genialità di Chopin, siano gli studi per pianoforte, questi brani che dovrebbero avere una valenza didattica e che attraverso una reale utilità didattica, in realtà racchiudono un mondo poetico estremamente denso, estremamente forte, estremamente profondo, che solo en passant abbiamo in qualche modo potuto analizzare qua e là nei valzer, negli improvvisi e nel notturno. Thank you. accordi finali. In pratica non chiudono, è come uno squarcio, come se si fosse strappato qualcosa nella composizione. E questa idea di strappo, questa idea di squarcio è molto rappresentativa di quello che può essere più di una chiusura enfatica, prevedibile, con un accordo finale. Questa idea di sospensione rende un'idea di dolore che in qualche modo strappa a quella che è la realtà vissuta così da lontano. Avete ascoltato? Guida all'ascolto della musica classica, 3 secoli di creatività musicale. A cura del professor Stefano Malferrari. Trasmissione realizzata da Radio Città Fujiko in collaborazione con l'Università Primo Levi e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.